cominciato quando sei venuta qui. Io mi sono fermato a portare la valigia tua. Dopo una battuta, un sorriso tu mi dai. Io mi sono perduto dentro agli occhi tuoi. Io non so com'è, ma mi sono immaginato. Io non so com'è, ma mi sono innamorato. Io non so com'è, ma mi sono immaginato. Io non so com'è, ma mi sono innamorato. Abbiamo parlato, quattro mura intorno a noi. La mia mano un fiore ti ha donato, ma è il destino che mi ha ringraziato. Un bacio al sole tramontato, questo è il sogno che per me di più di tutti ha significato. E questo è il motivo perché io non so com'è, ma mi sono immaginato. Io non so com'è, ma mi sono innamorato. Io non so com'è, mi sono immaginato. Io non so com'è, ma mi sono innamorato di te. Molti errori, ho buttato parole in aria ed ho immaginato ciò che in realtà non c'è mai stato. Mi sono accorto che l'autostrada della vita è ancora lunga perché l'ho percorso solo in parte. E adesso dentro me sta tornando l'energia, eppure già lo so che non è ancora finita, perché io non so com'è, ma mi sono immaginato.